No, boh, non lo saccio. Andrà bene. Avanti Fabrizio, come tira? Nascosto, no, come tira? Non manco più. Vabbè dai, ciao Luca, buon riposo, no? Non dire troppo, Vabbè dai, continua già che vi sto ascoltando, adesso è tornata la pittina. Sono qua, come siete incasinati, mi ascolto, va, adesso qua. Io sembra così, devo farlo scaldare un po' con l'apparecchio prima di usarlo, così caricherò bene il condensatore e poi a posto. Grazie già del consiglio, grazie del consiglio, non ci avevo pensato. Lo so, quello te l'ho detto, avanti. Sai che ho visto ieri mattina, ho preso il caffè, anzi lui si è bevuto il cognac. Te ricordi quel Monteoro Gabbiano, si chiama chiamare Gabbiano, ti ricordi? Sì, che me lo ricordo, Gabbiano, ma non era di Monteoro, era di Bancali. Sai che era di Monteoro, di Bancali, no, di Monteoro mi sembra che sì, che era. Mi sembra che era Monteoro, se non vado errato. Nino Gabbiano, si sta dicendo Nino Gabbiano, era di Bancali. Che si chiama Nino, mi vede, Magrolino. Feotto, già me lo ricordo bene, di Bancali. Cruscia, capito, c'aveva in macchina lui. Sì, già me lo ricordo. Mi assomiglia un po' alla faccia di una scimmia. Lui, già è lui. Gesuino Mura, capiamo si chiama, se la gatta da. Il baracchino l'ha dato a me, l'ha dato. No, mi sembra si chiama Nino. Beh, si chiama Nino, mi pare che si chiami. Non lo so, però ce l'aveva in quegli anni lì, capito? Ce l'aveva in macchina, in casa non me ne ricordo, lui in macchina ce l'aveva. Beh, ce l'aveva 126, se non vado errato. Già è lui, già, Gesuino di nome, perché la sorella del padre era sposata a Muro, ciao Gigi, ciao Tirani, comunque ciao a tutti gli altri amici. Ed era preparato a me, era un trattore 5024, lui aveva fatto un cambio, aveva fatto un Intec 410 a 40 canali, e lo conosco perfettamente. È positivo, ma era di Bancali o di Monteoro? Mi pare di Monteoro, io mi ricordo. Bancali. Capito, io mi ricordavo Monteoro, lo sai, mi ricordavo Monteoro, invece era Bancali. Ma era in quegli anni 70 e crusciami, prima degli anni 80, anni 70, no, prima 74, 75, 78, quei periodi lì. L'avevo conosciuto nel 76, quando sono arrivato ai geometri, l'avevo conosciuto a lui, poi c'era elettronici, capite altri, poi c'era elettronici a metà Bancali. E così ho fatto amicizia e poi mi ha detto che lui c'è qua dei parenti, che c'era la zia che abitava qui, e in quel periodo nel 76, quando sono arrivato ai geometri, l'avevo conosciuto. Gianni, buonasera, riprendi. Allora, due cose ti voglio dire. Nino Gabbiano studiava all'Istituto Agrario, io l'ho conosciuto lì, e già modulavamo sia lui che Sambuca, se te lo ricordi, Sambuca, e io che mi chiamavo di più lui sempre. E ci siamo conosciuti lì perché modulavamo tutta la sera e poi abbiamo capito che eravamo tutti e tre all'Istituto Agrario, ci siamo trovati alla migrazione, ci siamo conosciuti. Avevo conosciuto la cosa elettronica che anche lui studiava ai geometri, però lo conoscevo benissimo poi a Gabbiano perché, ripeto, avevo fatto un ricordo in verticale, perché mi avevo chiesto di fare di qui, e lui sapeva, poi l'avevo rivisto negli anni 80, stavo cercando 40 canali, adesso io sono 23, ho detto, quello è il 23, te lo do io, gli ho fatto i 40 canali della Inter che mi aveva dato il portale, e poi quello già era finito male col baracchino, era buono a 8 anni a uno, non l'ho più visto, e quello è che ci aveva il corno, il microfono sa delta, quello che sembrava il rasoio elettrico, perché lui me l'ha fatto senza microfono e Adriano Cao aveva adattato questo microfono qui. Devo sta cercando il Tocca 5024 perché mi manca almeno una, diciamo, mi serve solo la la staffa con le viti, la per attaccare la staffa, perché loro avevano le viti. E per il resto c'è tutto, il focaio funzionante, 5024 con la gomma, di lusso, tutto pulito, pulito, senza un graffio, senza nulla, lucido. Il mio è completo, cioè, sono 14 anni in cui, no? Capito, ce l'ho completo di staffa, completo di tutto, hai capito, funziona perfettamente, ma non lo uso. Sì, Gigi, cosa avete pranzato oggi a proposito? Ho a dieta, scherzi. Oggi non ho mangiato molto, bisogna un po'. Guarda, ho detto oggi non ne mangio, infatti io carne non ne ho mangiato oggi io. No. Ho mangiato, ti dico la verità, solo un po' di pasta. Ho mangiato un po' di pasta e non ho voluto altro oggi. Perché troppa cosa, poi mi sentivo già sazio, capito? E poi succede che metti sempre qualche chilo in più questi giorni di festa, capito? Però, ripeto, non ho mangiato frutta secca. Quest'anno non ne ho mangiato. Non ne ho mangiato, non ne ho neanche comprato, dico la verità, perché gli altri anni mi ha sempre fatto come acidità di stomaco, questa frutta secca, queste noci e tutte queste, io ne vado matto, quando c'è io sto sempre mangiando e poi mi fa tipo, anche deve essere anche le noci perché io esagero, mi fa come un bruciore di stomaco, capito? E allora quest'anno l'ho invitato quelle cose lì, però insomma carne, tutte queste cose così, già borgette, via dicendo, pasta al forno, quello che c'era già, vedi, quello che c'era ho mangiato, tranquilla, però oggi ho deciso di niente, anche stanotte, guarda, io avrei voluto, guarda, stanotte sarei stato il più felice del mondo, se avrei avuto, che è possibile, ma mi avrei mangiato un bel piatto di brodo, lo sai, ma me l'avrei mangiato volentieri. Stanotte non la faccio fare, con i miei figli, no, a mezzogiorno ho mangiato quei pozzi che erano avanzati dagli antipasti, capito, e poi ho mangiato un po' di mandarini, ho mangiato e poi le sapomi con quelle arachidi, con quella roba lì, sapo i fichi secchi, però non ce ne dovevo mettere perché mi sento un po', capito, la roba dolce ti frega, però per mangiare poco la carne lasciamo, nessuno voleva di mangiare, non c'è salito, non manco mio figlio, ma comprato, perché si vede che ieri hanno sono buffati bene, niente, già ce ne sono ancora giù di fretta, però la carne è proprio poco, come ce ne veniamo anche regalato, niente, capito, però diciamo, come se ci sono tutti, con le feste ti mettono più di troppo e come se non lo subito sale. Mia moglie ce l'ha già, abbiamo detto a fare a regime, però come fai, non è che puoi non mangiare nulla, non li prendi già, tu a dieta sei oggi. Ma ti dirò che oggi ho mangiato, purtroppo ci ha mancata carne di porcetto, carne di agnello, e poi abbiamo fatto un po' di pasta e poi c'era rimasto anche insalata di mare da ieri. E cosa fa? Ce la butti, ci siamo mangiati la roba che c'era da ieri e in più ha fatto la pasta, ha fatto le fettuccine all'uovo e così ci siamo arrangiati. Anzi, c'erano anche le polpette che ha fatto in più per oggi e io non ne ho mangiato, dico la verità. Ma la roba che c'era rimasta non si può buttare, vai, non è tempo di buttare via la roba. Ho mangiato poi pulpi e fecerie e carne perché l'avevo fatta cucinare giusta per la vigilia, la coscia dell'agnello, tanto sapevo che poi di notte se lo cucinavamo intero ne mangiavamo poco, perché dopo non è che ci può buffare più e niente, abbiamo ripassato quei pulpi oggi e tanto non fa ce n'è, capito, c'è il freezer, c'è il maialetto senza toccato, un agnello me l'hanno regalato quel che ho avuto la campagna, un altro ho comprato io, già c'ho i piedini da fare, poi così chi, coro lì, rosazzone per l'ultimo, no, bisogna fare come tu dici qualche cosa di provo, se no l'organismo scoppia e riprendi lì. È positivo, scusami, ho capito, ma cosa, stai uscendo Santiago Nove da me. Sei lì o sei aiutato con qualcosa? Sì, sto usando il 44, non c'è la nuova attaccato, mi sembra sta sparando una con 30 watt. E 44, anch'io prima stavo operando 44, che 44 stai operando? Ok, c'è quello con la K, e gli ho fatto 1-0, quello con la K. Ho capito tutto. E questo invece che è un vecchio 34 canali, cosa ti sembra questo 34 canali di vecchio stampo con 4 watt e 4 watt e mezzo, normale, normalissimo, cosa ti sembra? Valla grande, dico, valla grande, io questo è un, come si chiama, così che mi sono fatto un regalo giusto per averlo, però per il momento ieri sera il, come si chiama, che commutatore e l'occhio va sempre sui paracchini, perché sui paracchini a 23 canali, quando ho piatto quelli io sono in modo il più felice del mondo, questi che ho così per collezione, intanto se ne accendiamo uno, giusto anche per abbellire la stazione. Sto studiando, un conto mi sono collegato col computer, con di radio amatore, no? Con questi, con i test, e c'erano le domande, se non è superabicente non posso fare la pagina successiva, mi sembra che in una cartella ne ho beccato due. E caparroggio, caparroggio. Oh, c'ho il microfono suo originale, il suo originale di questo baracchino, C'ho il microfono suo originale. Solo se lo metto cambia tutto qua, Se li metto il suo originale cambia sicuramente. Scrivi, io lo stesso c'ho il microfono a tavolo qui. Hai capito? Ma c'ho anche quello manuale di qui, Perché è preciso quello del dico, ma diciamo che si usa tanto per farti ascoltare, visto che arrivo bene, sì, quando ci si parla con quello, così diciamo bene a te anche, e tutto lì. Capito? Tu già immagino che il Galaxy ha attaccato, no? C'è il Galaxy, c'è. Mi piace quello a me. Ti stavo dicendo, comunque già nei giorni scorsi arrivavo i media di radio, a me non mi piace la radio Luciani, dico la verità, non è chiara, non è chiara per qualsiasi motivo sia, o che ti avvicini troppo, o che l'hai alzata troppo, non lo so, non è chiara come nei giorni scorsi, tu nei giorni scorsi è arrivata una bomba e chiaro, tu hai toccato qualcosa. Tu l'hai già toccato, come hai messo lei? Aspetta. Aspetta, è un difficile, lo passiamo di... Ma senti Gino, come sta uscendo? Sì, lo senti. Radio non è chiara, non è limpida, capito? È come è satura, mi rimane, è masticata, buono, come dico. Vedi com'è, e questo è il microfono suo normale. Sembra lo stesso. Tutto questo è il suo GTE, il microfono GTE, ala GTE. Suo originale del mio baracchino, è nuovo nostro baracchino, è bello. È stato tenuto bene, capito? È di vecchia stampo, però è nuovo di pacca, vuol dire guardandolo è abbastanza nuovo. Questo è il suo microfono normale. Qual è quello che c'è la scritta sopra? Alan 44, certo? No, questo è professional. Ala 88S è questo, professionale, capito? GTA, comunque della GTA International. Io ho capito, te lo copri quel microfono che ti ho detto l'altro giorno. Due. Sta più scendo. Avevo passato quasi a zero già proprio, così lo devo lasciare, se no non esce. Quale microfono già? Ho detto, quello che stavo prendendo, quello d'attacco. Ma il prezzo gli è passato? Sempre 80 lo sto dando. Sono 80 già, hai capito? Carne più 2 è un casino, poi c'ho i più 3, ne 80 già, c'è uno scurcio, hai capito? NSPE che devo controllare, io non la voglio questa cosa già, hai capito? Troppa roba c'è già, troppa roba sta girando qui. Sì, ma c'è la passione già, quella è la ragione, ci devi buttare via tutti quelli che non funzionano e prenderti rifunzionate le cose. Ma il fatto è che per adesso è rimasta tutta la roba funzionante, hai capito già? L'unico apparato io ce ne ho sempre due, quando uno non funziona non so ne ho sempre come conta 25 pigli o due, uno funziona e l'altro non ha, forse più un pezzerie mi era come l'affero, ma per non fare ravvenato c'era la presa che la roba della posta, hanno comprato un altro, cioè ce li ho doppie, capito? Ero tentato di comprare quello di Itri anche, il 44, ma che me lo vuole fare? Sto scherzando, bastano e avanzano già, se no qui diciamo di questo un coso, mettiamo l'insegna fuori della porta, riprendi. È positivo, no? E poi troppi non va bene, io mi ho questi e qualche don altro su. E niente, avevo il gas, il Saturnico e mi sono pentito proprio averlo dato, me l'avrei tenuto e però l'ho dato via e mi sa che ho sbagliato, mi sarebbe piaciuto riaverlo. L'ho dato perché non me lo ricordo neanche io perché cosa ho fatto, cambio, se l'ho venduto, non me lo ricordo. E so che è andata via a Pattana, comunque c'era questo di Pattana, c'era adesso. Ma a Pinocchetto l'ha dato a quello di Pattana, non a Monserrata, un altro ancora, a Spiri Gonzale. A quello modificato, era quello bello, lui ci va con la camera, ecco, pura. No, quello è a Cagliari, quello è a Coso, era di Leo Trinino, c'era Paolo Alfa 2, c'era quello lì adesso, quello l'ha fatto Roberto. Quello è come il brutto a me, come il brutto, quello che c'ha Massimiliano, il brutto. E c'è lì come se lo fai, non cambia nulla, è la stessa cosa. È uguale, perché dice, è più grande, però dice la stessa cosa, è la stessa cosa del brutto a me, capito? La dice che è la stessa cosa. No, quello ce l'aveva Leo Trenino, che poi quando se n'è andato l'ha venduto a cosa, all'adatto, non so. Se gliel'ha venduto cosa l'ha, o come, in cambio di qualche cosa, questo Paolo Alfa 2. Grazie. Secondo quello del sistema me lo faccio anche io, questo Galaxy che c'ho io. È bello, è un cartoncino bello, però devi mettere il microfono, dai, o quello della Faietto, il GTE, con quello di vero, non va più quel microfono amplificato, voglio dire da tavolo, sta già che tu ne togli sicuramente l'amplificazione, quelle cose così, capito? Roberto aveva fatto quello di Leo Trenino. Ma se li mette l'effetto concolto, l'amplificazione c'era lo stesso, anche se ci metti il microfono normale è come se fosse amplificato. Sì, no, ti volevo dire, non va bene più un microfono a tavola, capito, una volta che fai quel lavoro lì, capito, è quello che ti volevo dire. No, la scheda, quel rilevo che c'ha, lo togli e le mette la eco colpo, gli mette, capito, gli mette quella lì. Appagato, e non va bene. Gli mette l'eco colpo, poi i canali non c'è bisogno di farli, perché ce li ha già, e cosa li fa di altro? Le luci blu magari dei smitter. Siamo da qui, il bip ce l'ha già lui di suo, vero? Sì, ce l'ha il bip. Beh, dove se c'è? Ma intanto ti devi certo forse più al microfono. Prova a vedere se c'è il bip. Col bip ho aumentato la radio. Davvero? Già ho KB2. Mi hanno pure toccato, mi ha aumentato la radio col bip. E allora lo lasciamo. Deve essere che magari ha collegato qualche cosa, che ne so, magari si abbassa anche la radio, e chi lo sa. L'amplificazione aumenta, si amplifica di più, ma prova a attaccarlo a vedere, per fare sempre la stessa distanza al microfono. Prova a vedere, uno per tre. Ah no, mi sembra che è uguale, ti ha dato un'impressione che ho aumentato di radio. Poi magari perché prima era un po' più distante, poi mi sono avvicinato, la pizza aveva pensato che fosse il bip. E così, infatti ho detto se ti sei avvicinato a cosa, io per esempio mi allontano e mi avvicino e sembra che stia aumentando, giusto? Ora, già va bene, c'è di lusso. Ma a me mi è sempre piaciuto il Galaxy, ne ho avuto tanti, mi pare 6 o 7 ne ho avuto in tutto. Ho sempre pensato di averli venduti, mi sono. Quello più bello che c'è, io ho venduto, ho fatto ultimamente, perché da quello più nuovo che ci aveva e non è mai stato toccato dentro, niente, proprio perfetto. Ma uno mi pare aveva preso da Ulbi a Claudio e te l'aveva dato a te pure, o sbaglio? Sì, è questo che c'ho. Noi, Gianni, ci sono diversi modelli di quello, c'è uno che esce un bel forte con un bel infatti, lo sai tu, c'era un modello di quel cara lì che esce con un bel infatti. Io tutti li conosco, guarda, come si chiama? Galaxy Turbo. È positivo, dai, chi ce l'aveva, che ce l'aveva, uno quello di Milano Sardo ce l'aveva, poi lo voleva vendere, ma a volte lo sentivo, non lo sentivo bene, lo sentivo male, non la stazione fissa, no, quando iniziano a sentirla bella la radio, no, un po' scombussolata, no, no, no, non è, infatti detto, io ce l'ho avuto, ma non era così, la radio non era chiara, non era buona come radio. Allora, quello da 100 watt, e lui. Vittorio mi aveva detto, quando l'ho portato a cambiare i finali, mi ha detto, già, la prossima volta li mettiamo da 100 watt, e te lo faccio uscire con 100 watt dalla parete. E detto, ah, meglio originale, a me mi piace originale come... Dice, questi sono i finali originali, però se tu vuoi, li puoi mettere quelli da 100 e esce come il turbo. Eppure, sì, penso di sì, che si possa fare. Penso che si possa fare. Ia. Avanti, capi due. Ok, già. Io ho tutto quanto il manuale, come allinearlo, tutto. Cioè, tu ce l'hai quella roba lì di allargare. Cioè, tutto quanto le istruzioni, manuali, servizi, tutto, quella roba lì ce l'hai. Io non ce l'ho, ma il mio esce perfetto, non ha bisogno di allineamento, esce perfetto. La frequenza che non si sposta come tanti Galaxy. Io per dire, l'altro che avevo, quello nuovissimo, aveva il difetto che faceva per 27,75, 27,76, 75, 76, 75, 76, stava sempre lampeggiando. Questo si blocca, 75 e boh, fatelo io. Sì, ma si possono controllare, sotto come si chiama, come controllare il voltimetro su tutto. No, bisogna fare lo stadio finale lì ed è a posto. Hai capito? Sono cose che vediamo. Perché sto pensando a altre cose adesso, però dopo le feste vediamo il da fare. Barracuda non l'hai sentito già, no? Negativo. Guarda, io ti dico una cosa. Che tu se lo porti a Vittorio sta tranquillo che non te lo fa in un giorno, però quando te lo fa te lo torna rinato di lusso, proprio tutto allineato bene. Io guarda, quando lo stavano facendo il mio, che l'avevo messo in finale, era a Porto Torres, non ci credevo che era come apparato, mi ha detto sono Vittorio già, come mi ascolti, cazzo, fortissimo, sia di radio che di Santiago. Dice, questo è il tuo apparecchio. Ma vai, dai, lo sto allineando e terminato. Lui sta facendo una taratura veloce e poi è terminato tutto. Finali a MOSFET già, già. No, non è a finali a MOSFET, ce l'ha normale. Però è un apparecchio che si è andato molto bene. Questo qui era uno, cioè era l'elite, la star delle stazioni base. Non lo metto in dubbio, no, però quello c'è io nuovo di pacca, nuovo. Ok, adesso non nuovo, vediamo, facciamo fare questa roba qui, capito, poi lo usiamo anche a lui. In più caso mi voglio fare oggi una postazione tutta in legno, bella, per mettermi gli apparati, una postazione tipo quella c'era Claudio, capito? E mobili a comprare, quelli non ce n'ho, se non ce n'è. Ma sicuramente il falegname ci vuole a farla, perché lo faccio, mi faccio la roba ordinata tu, riprendici. È positivo. No, io adesso non sono su a casa, eh. E qua ne ho un paio omologati di questi baracchini attaccati qua. Non ne ho di più, ne ho un paio che faccio le prove. È il mio piccolo laboratorio questo, dai. Il mio piccolo laboratorio, poi le altre ce l'ho su a casa, dai, messi, ma non ne ho, collegati ne ho altre due o tre su a casa, capito? E due ne ho qua, tanti, no, tre ne ho qua collegati, anche qua ce ne sono tre collegati. che posso passare da uno all'altro. E niente, qua c'ho quelli più normali e anche su ne ho normali e qualcuno beh, leggermente più che esce con qualche watt in più, dai. Io più no, io la postazione è questa, gente, che non la faccio in garage, ci può anche fare però l'antenna, capito, già solo lì bisogna metterci un traliccio enorme a superare la collina e quindi facciamo come il poco che modulo da qui. E così. Che stavo dicendo già, quella roba che ho detto a Antonello Barracuda è un affare, mi. È un affare perché lo stavo riguardando oggi e sembra immacolato quel 44. Bisogna vedere come va, se va fuori frequenza, se è a posto, tante cose, bisogna una parte, poi c'è il nuovo fuori, poi dentro magari tutto scacciavitato, non vuol dire quello lì. Per dire, io ho avuto un Galaxy che ho ordinato da internet, e mi è arrivato con una scheda di 45 litri, eccetera, eccetera, infatti l'ho tolta subito perché non me ne fregava nulla. Però aveva questo problema che faceva questa alternata forte, che sentiva più l'alternata della mia voce. L'ho portato a aggiustare, non ne hanno cavato più, gli ho regalato la buona anima di Manolo, e poi lui ci ha messo mano, ma non è riuscito manco lui, l'ha tenuto come pezzo, insomma. 200 euro buttate, capito? 200 euro buttate perché era difettoso. Infatti non conviene comprare la gente che non... Io questo qua l'ho comprato perché conoscevo la persona e questo è immacolato, questo è perfetto in tutto, in banda laterale, da tutte le parti. E anche io questo l'ho comprato perché conoscevo la persona, hai capito, se no non avrei comprato. Poi però un altro che ho fatto prendere contatti ad Antonello, capito, non è lontano, ha fatto un salto in macchina, provarlo, c'è Antonello un po'. Se ne intende, poi si fa accompagnare, lo vedono e il prezzo sembra accettabile, sembra, poi vedrà lui quello da fare. Riprendi Gigi. È positivo, eppure lui si sta appassionando a Antonello, dai. Però non è che si sente molto, ogni tanto entra, poi sparisce, poi si fa risentire, non è che c'è, vabbè, anche io non è che ci sia molto qua in radio, però ultimamente non sentivo più di tanto, neanche cosa ho sentito più a Antonio Grotte, e neanche a lui ho sentito più già. E gli impegni di lavoro sono. Antonello non sta lavorando oggi e naturalmente se busca qualche lavoro preferisce andare a lavorare piuttosto che stare all'apparato. E molte volte va fuori al Zacchena, cose del genere, e quindi torna stanco, non ce la fa. Io lo so perché Antonello lo sento, ci sentiamo al telefono, eccetera. Antonio Grobe lo stesso sta facendo quella vendita di zuccheri, poi c'è altri tipi di vendita che sta facendo, quindi è impegnato anche nel lavoro, e li fa ascolto, ogni tanto interviene, fa una battutina e fa cucù e poi si sposta. È positivo, positivo. Oh, faccio un attimino di bianco, riprendete che già sonno, mi sta avendo sonnolenza, un caffè qualcosa mi vado a prendere. Vado a prendermi un caffè o qualcosa su a casa, dai. Riprendete che datemi 10 minuti e mi prendo un caffè. Sì. No, anche io ero così, ecco. Se diciamo che un altro caffè ne ho già preso uno e non mi voglio abbuffare di caffè, purtroppo nella digestione. Digestione lenta, poi non fa uscire, era sempre, io sono andato anche qui anche piovendo, ho visto la parabolica, già ogni tanto poi si interrompeva, non voglio che il vento l'abbia spostata. E così ritrovo sei già oggi. Cosa ti stavo dicendo? Ma tu lo sai da quel 440 che c'è tu esce con 200 watt? 200? Tu lo sapevi questo? Che c'ha il finale da 200 watt. Quello a me adesso quando schiaccio, qui sono portato più a 30, ma lo sapevo già. Prova a metterlo a massimo. massima della sincerità. Io so che è così, che ricordo che era così. Se è quello della persona che dico io, mi ricordo che è così. Ma me, per me non ti sta rendendo parecchio. No, quanto sono adesso come segnale? Non diciamo 70. Forse non lo vedo da qua. Perché? Sento le luci. Dove va bene? 9:10 si va. Perché non lo so, ma... Cioè, ma non lo tocca l'altro, per stare in un centro, per il normale, per... Sì, chiaro, sei tutto saturo, non è quasi incomprensibile. Aspetta che mi centro a 30 di nuovo. Così sono chiaro? Ma così sei chiarissimo. Ma se ne vai 200 volte già. Io sapevo che avevo finale 200, poi non so cosa dire. Sapevo così. Se ti avvicini la voce diventa brutta. Sì, infatti mi sono allontanato. Perché lui non ha più intenzione di piacere nulla, mi ha detto. Non ha più intenzione di piacere niente. Dopo sono venuti, si sarebbe rovinato, mi dice. Ma io vengo da me quello. E poi io sono di quella previsione, ho speso 500 e passa per quello, per il magno, però non è nuovo, i componenti sono nuovi, non sono sfruttati. Lì magari dopo un paio di mesi ti parte il componente, non lo trovi, cose, invece questo qui è nuovo come apparato, tu mi dai, non è un kit, però è un magno. Anche altri 100 anni così, però c'è sempre il rischio, magari i componenti dopo essere stati usurati per un po' di tempo ti possono anche, c'è il rischio che ti possano partire, capito? C'è parecchi già che hanno capito tipo l'immuniti non sai che ho visto il Capri 2? Ah, che brutto che era. Come l'hai visto? Ma niente l'hai visto. Visto CB, che praticamente c'ha tutti i tasti, come un autoradio. Sì, così era già, però io li avevo fatto e non ne avevo levato, non so quello fuori, capito, c'ha di trasmissione, di gestione, ne avevo comprati in parte e ce li avevo tutti e 23. Campagna. E li cambiavo i quarti quando dovevo durare in quel determinato canale, così. Sì, c'avevo anche la parte della scena, ma allora ero un ragazzo già, e non sono mai riuscito a collegarla, capito? Tenendo di fare, poi a volte di 91, si potevano mettere tutti i 23 canali, prima ne avvolgavano altri 4, altri 4 parti, però la mercazzata preferivo a poco sicuro tipo una spina mettere i quarti. C'è una bella cosa, quella mi piace, me lo voglio prendere. C'è un summer camp più il VFO esterno, te lo ricordi il VFO esterno? Io uno di quei VFO esterni, summer camp, ne ho qualcuno anche. Ok, però era un come si chiama, se era parecchio, non era fatto il coso bene lì. sulla Fayette, sulla stazione base ce l'aveva un amico e andava bene, andava più che bene, forse quello era fatto male, andava più che bene, c'entrava bene i canali e tutto. Sulla Fayette ce l'aveva lì, ma non lo so anche io. Quello di Monteoro. L'antenna c'è cioè che sia pure io ci avevo una voce di mobili già anni a Usi, non è quello che c'è mangatia c'era piana, c'era lui era fabbra, vendeva mobili vendeva e ci aveva il costo e cosa per uno di questi c'era il grosso no, ce l'aveva un'altra persona che adesso non mi ricordo come si chiamava non me ne ricordo, manco a pensarci, ti parlo degli anni 70 e quando l'avevo vista a casa sua me ne ero innamorato, mi era piaciuto un bene il VFO. Beh, lo è fatto bene, è di lusso. Siete quando girava, perché prendeva e sintonizzava giusto giusto, tutto perfetto. Comunque io già ho l'alimentatore qua per mandarlo, per farlo funzionare con l'apparato che c'è tu, di 440. Ma che alimentatore c'hai? 50 ampere. Sì, ma che sono 20, però ne aumentano. Vabbè, lo accetta, ma io non lo sfrutto, il 50 ampere non lo sfrutto, invece 20 ampere lo sfrutto al massimo. Quello che c'aveva lui, che ci ha venduto insieme all'apparato, quello grande grande, della grattagina. Sì, allora bisogna metterci una metterlo a posto. Ma l'ha detto ieri che sta di pulendo. E beh, tutto rispetto ai contatti, mesi, di cose, per cui va bene. Se riusciamo l'altra volta ho detto che lo faccio diventare e non l'ho fatto entrare a guidare. Non più l'antenna quella.

aspetta. Oh, Antu! Va bene. Aspetta, senti il microfono. Allora, Fabrizio, Fabinino. Cosa sono? Tutti nervosi alla fiamma. Perché? Ma tu lo sai chi era quello che stava parlando con tuo padre? Io ero me. Ah, ce l'ho presente quella. Me lo ricordi l'altro giorno? L'altro giorno? Che cazzo non ti aprivano il cancello? Vabbè, più di una volta l'hanno aperto. Ma non mi ricordo. Ma ero qualche volta, qualche camoncino. Strada piano. Sul fasciato, no? Quello non vuole. Hai capito? Guarda che già mi hai visto giù, non c'è da sbagliare, cazzo, il giorno cazzo non riuscivi, avevo fatto un casino con le fatture, te lo ricordi? Ah, il faccio sì, va, perché se non ne avevo fatto la referenza, quindi forse, forse sì, ma quello per robusta. Sì, con un giubbotto arancione con le tappe grigie. Arancione, non mi ricordo. Mi scappa. Ah, sono io, sono fatto di... Tranquillo al 100%. Stavo parlando con tuo padre al camion e poi voi siete partiti. Vabbè, se ti vedo mi ricordo. Un giubbotto, guarda, pantalone blu è un giubbotto. Ti faccio accendere, domani devi scendere. Forse scendo domani. Se scendo di sera, capito, perché sono già carico, capito? Gaffa. Comunque già eri tu, dai. Ma non c'è da sbagliare, c'è un giubbotto grigio con le tacchette. Anche lui! I pantaloni blu. Giubbotto grigio sì, ma non giubbotto arancione. Giubbotto grigio con le tacche arancione, insomma. Hai capito? Io ho capito, dai, ho capito. Ma ti conoscevo da un po' di più, ti conoscevo. Capito? Tanto abitavi qui in zona. Ma questo, ma io conoscevo pure a te, la mappa che ti ne fai, raga. Conoscevo anche a te. Infatti sono arrivato un po' così quando parlo, sai come parlando e poi me la trovo, ti ho detto ma non è vero, allora sei tu. No, ma non c'è da sbagliare, guarda il giorno, e io ti ho risposto sì, è giorno di mezza e non che un qualcosa del genere, hai capito? Quando stavi uscendo va, era un bel fretta il giorno con la... dovevi uscirci subito tu, perché eri molto in fretta. Antu! Vabbè dai, devo far girare. Che a gaffa. Avanti, oh, Daniele. Ecco già bene. Che abito dice Antu? Gaffa, te lo so che ci sei tu, ma pensavo che c'era qualcun altro. Ah, pensa. Aspetta, senti il microfono. Il microfono non me ne fai mai intendere. Ma se sto ritornando? Se sto parlando qua non sto tornando. Guarda un po' a tu. Non è male, non è male. Va bene oppure? Non devo toccare ancora. Cosa, come ti si chiama? Chi il microfono? A me non si acciappa più, certo non me lo ricordo nemmeno. No, ecco, questo è faccio fare le campane, questo è un Intec. Già lo so che è l'Intec, ma adesso non mi viene in mente come cavolo si chiama.